quando mi guardi c'è un'atmosfera, ci sei solo tu ma la sala è piena. Luci su di noi, cosa stai pensando adesso? Dimmi che ne vuoi, che non basta mai. Cosa ci fai in seduta sola, vestita come la prima lasca? Perché sai che eleganza non si impara, con te davvero non c'è gara. Digliela questa splendida moon, che da domani non torno più. Sarà destino, sai bene, sai bene, sai bene che se ci siamo io e te, perché il mondo è piccolo, che ti brilla negli occhi stasera, brucia come una candela, la luna sembra una sfera che fa innamorare, speciale, ma anche se vado con te, non ti fidare di me, che a volte sono più, ma a volte volo via nell'aria. Poi ritorno qui da te, non è come nelle fiabe la regina batterre. C'è una musica là fuori, fa l'amore con il vento, regina mi concede questo lento. Sotto ad un piano di luna, a volte ci vuole fortuna, decide da sé, decide il destino. Sai bene, sai bene, sai bene che se ci siamo io e te, perché il mondo è piccolo, che ti brilla negli occhi stasera, brucia come una candela, la luna sembra una sfera che fa innamorare, speciale, ma anche se parlo con te, non ti fidare di me, che a volte sono più, ma a volte volo via. Vivere questa splendida moon, che da domani non torno più. Sarà destino, sai bene, sai bene, sai bene che se ci siamo io e te, perché il mondo è piccolo, che ti brilla negli occhi stasera, brucia come una candela, la luna sembra una sfera che fa innamorare, speciale. Volo via nel...